Simbologia del latte. Ora, dall'accostamento di questi due passi sorge un difficile dilemma riguardo al loro significato. Infatti, se l'inizio della fede in Cristo è rappresentato dall'infanzia in cui ci si nutre di latte, e questa è naturalmente disprezzata come immatura e imperfetta, allora com'è possibile che il riposo finale a cui perviene l'uomo perfetto e gnostico, dopo essersi nutrito di cibo solido, sia di nuovo chiamato e onorato con il nome di latte per bambini? Ma forse la parola come, che indica un paragone, serve ad introdurre una cosa analoga a quella già detta, e quindi la frase citata sarebbe da leggere così: vi ho abbeverati con latte, e qui bisogna fare una breve pausa e poi riprendere come bambini. In tal modo, grazie a questa cesura nella lettura, intenderemo il testo con il seguente significato: vi ho istruiti in Cristo con un cibo semplice, veritiero, naturale, il cibo spirituale. Tale infatti è la virtù nutritiva del latte quando sgorga dagli amorevoli seni. L'intero brano quindi sarebbe da intendersi così: come le nutrici nutrono con il latte i bambini neonati, così anch'io vi nutro con il Logos, che è il latte di Cristo, versando in voi un alimento spirituale. Perciò il latte perfetto è un alimento perfetto e conduce alla perfezione ultima che non tramonta. È per tale motivo che anche per il riposo finale è stato promesso questo stesso latte e miele. E naturalmente è ancora latte quello che il Signore promette ai giusti, affinché sia chiaro che il Logos è sia l'alfa che l'omega, sia l'inizio che la fine. Anche Omero involontariamente ha profetizzato qualcosa di simile chiamando i giusti galattofagi. Si potrebbe però intendere questo brano della scrittura anche così: io, fratelli, non potevo parlarvi come a persone spirituali, ma come a persone carnali, come a bambini in Cristo. Designa quindi spirituali quelli che grazie allo Spirito Santo hanno già creduto, come carnali invece quelli che da poco hanno ricevuto l'istruzione catechetica e non sono stati ancora purificati con il battesimo. Poiché essi, al modo dei pagani, pensano alle cose della carne, è naturale che li chiami ancora carnali. Dal momento infatti che in voi c'è gelosia e contesa, non siete forse carnali e non camminate forse secondo le vie dell'uomo? Per questo, dice, vi ho abbeverati con latte, ossia ho versato in voi la conoscenza che partendo dalla catechesi vi nutre e alleva per la vita eterna. Invero la stessa espressione vi ho abbeverati indica simbolicamente una comunione perfetta. Dei perfetti infatti si dice che bevano, i bambini invece succhiano. Il mio sangue, dice il Signore, è vera bevanda. Dicendo vi ho abbeverati con latte, non alludeva quindi forse alla perfetta felicità che è nel Logos latte, cioè alla conoscenza della verità? E quando aggiunge di seguito non con cibo solido, non eravate infatti ancora in grado di assumerlo. Può essere si riferisca con il termine cibo solido alla luminosa manifestazione faccia a faccia che avrà luogo nel mondo futuro. Ora vediamo come attraverso uno specchio, dice il medesimo apostolo. Allora invece vedremo faccia a faccia. Perciò aggiunge anche: e neppure adesso siete ancora in grado, poiché siete ancora carnali. Ovvero pensate ancora secondo la carne, bramate, amate, vi ingelosite, vi adirate, invidiate secondo la carne. Il senso di carnali non è, come alcuni hanno creduto, che siamo ancora nella carne. È con questa stessa carne, infatti, che con volto angelico vedremo faccia a faccia la realizzazione della promessa. Ora, se tale è effettivamente, dopo la nostra partenza da quaggiù, la realizzazione della promessa, che occhio mai non vide né entrò mai in mente d'uomo, come possono allora essi affermare di sapere, non certo per averci riflettuto con lo spirito, bensì per averlo appreso, ciò che orecchio mai non udì? L'udì soltanto l'orecchio di colui che fu rapito al terzo cielo. Anche a lui comunque fu intimato di non dir nulla. ma se questa loro millanteria di conoscenza è solo sapienza umana, e ciò è l'unica cosa che resta da pensare, allora ascolta il precetto della Scrittura. Non si glori il sapiente della sua sapienza, né il forte della sua forza, ma chi si gloria nel Signore. E noi, appunto, istruiti da Dio, ci gloriamo nel nome di Cristo. Come non ritenere che l'Apostolo intendesse le cose in questo senso quando parlava del latte dei bambini? Se le guide della Chiesa sono pastori, ad immagine del buon pastore, e noi siamo le pecore, come non ritenere che egli, riferendosi al Signore come al latte del gregge, mantenesse così la coerenza della sua metafora? Ora quindi dovremmo di nuovo interpretare alla luce di quanto detto il versetto già citato. Vi ho abbeverati con latte, non con cibo solido, non eravate infatti ancora in grado di assumerlo, intendendo per cibo solido nulla di diverso dal latte, bensì una medesima sostanza. È in questa maniera infatti che lo stesso Logos può essere sia fluido e dolce come il latte, sia saldo e compatto come il cibo solido. Tuttavia, pur volendo intendere il testo in questo senso, possiamo però anche interpretare il latte come la predicazione che si diffonde a profusione e il cibo solido come la fede, la quale è il condensato della catechesi e viene così a costituire un fondamento stabile. La fede è paragonata al cibo, essendo più solida di una semplice parola ascoltata, poiché prende corpo nell'anima stessa. Altrove, anche il Signore, nel Vangelo secondo Giovanni, si riferisce simbolicamente a tale nutrimento. «Mangiate la mia carne, dice, e bevete il mio sangue». Cibo e bevanda rappresentano qui allegoricamente lo splendore manifesto della fede e della promessa. È di queste due cose che la Chiesa, costituita come un uomo di molte membra, si nutre e si fortifica, si accresce, si consolida e si compone. Di entrambi, ossia del corpo che è la fede e dell'anima che è la speranza, come pure il Signore era fatto di carne e di sangue. E la speranza è realmente il sangue della fede. Essa è l'anima da cui la fede trae coesione. E se la speranza, come sangue che cola via, si dilegua, la forza vitale della fede tende a spegnersi. Identica sostanza del latte e del sangue. Ma se volessero ancora insistere nel dire che il latte rappresenta gli insegnamenti primari, cioè per così dire il nutrimento iniziale, mentre il cibo solido rappresenterebbe le cognizioni spirituali e in cima alla conoscenza si sono collocati essi stessi, sappiano allora che chiamando sia la carne che il sangue di Gesù cibo solido, in quanto alimento denso, sono, dalla loro stessa presuntuosa sapienza, condotti a riconoscere la semplicità della verità. Infatti la prima cosa che nell'uomo viene all'esistenza è il sangue, che alcuni giungono perfino a chiamare sostanza dell'anima. Questo sangue, dunque, quando la madre comincia ad essere gravida, per effetto del riscaldamento naturale si trasforma e perché il bambino non si spaventi, gli va amorevolmente incontro sbiadendo e diventando bianco. Il sangue in vero è più fluido della carne, è in un certo senso come carne fluida, e il latte è più nutriente e più sottile del sangue. Comunque è il sangue quello che si trasforma in latte, sia che si tratti del sangue inviato all'embrione e inizialmente trasmessogli attraverso il cordone ombelicale, sia che si tratti invece di quello mestruale, che una volta preclusogli il suo abituale corso, per ordine di Dio nutritore e creatore, si dirige per naturale sfogo verso i seni ormai turgidi e, modificato il latte per l'effetto di un soffio caldo, è offerto da Dio come gustoso alimento al bimbo. I seni, infatti, più di tutte le altre parti del corpo, sono in sintonia con la matrice. Quando poi con il parto l'arteria, ossia il cordone ombelicale che portava il sangue all'embrione, viene recisa, si verifica una chiusura in quel canale e quindi il sangue trova sfogo salendo verso i seni, i quali, non appena l'afflusso di sangue si fa abbondante, si dilatano e il sangue si tramuta in latte, così come quando c'è una ferita il sangue si trasforma in pus. Oppure avviene che, dilatandosi le vene che sono nei seni a causa delle concitazioni della gravidanza, il sangue da questi si riversa, trasformandosi, nelle cavità naturali dei seni, dove si mescola con il soffio che proviene dalle arterie vicine. La sostanza di base del sangue rimane inalterata, ma esso, sbattuto, diventa bianco e per questo rimbalzo che lo fa schiumare si trasforma proprio come avviene all'acqua del mare, che battuta dai venti risputa, come dicono i poeti, la schiuma salmastra. Ma la sostanza è sempre il sangue. Nello stesso modo anche i fiumi, trascinati dal loro impeto e solcati dal vento che li percorre, gorgogliano e spumeggiano. E così pure l'umidità che c'è nella nostra bocca diviene bianca per effetto del respiro. Che cosa vi è dunque di strano nell'ammettere che anche il sangue è trasformato dal soffio delle arterie in qualcosa di estremamente brillante e bianco? Esso subisce il mutamento nella forma, non nella sostanza. D'altronde, nulla si potrebbe trovare di più nutriente, più dolce e più candido del latte, il quale quindi assomiglia in tutto al cibo spirituale, che è dolce in virtù della grazia, nutriente in quanto è vita, bianco in quanto è il giorno del Cristo. È quindi ormai chiaro che il sangue del Logos è come latte. Al neonato, dunque, viene dato quel latte che era stato preparato durante la gravidanza nel modo descritto, e allora i seni, fino a quel momento diritti e rivolti in avanti in direzione dell'uomo, ora invece si inclinano verso il bambino e imparano a offrirgli per la sua crescita salutare quel piacevole alimento elaborato dalla natura. I seni, in vero, non sono come due fontane pieni di latte già pronto che zampilla, ma trasformano essi stessi dentro di sé quel cibo e così preparano il latte che poi fanno uscire. È un nutrimento questo rispondente alle esigenze del bimbo appena formatosi e venuto alla vita. Un nutrimento per lui benefico, preparato da Dio, nutritore e padre di tutti gli esseri generati e rigenerati. Esso è come la manna che discese dal cielo per gli antichi ebrei, cibo celeste degli angeli. Del resto, ancora oggi, le balie chiamano la prima fuoriuscita di latte con un nome uguale a quello del cibo suddetto, manna. Tuttavia, sebbene le donne, diventando gravide e poi madri, producano latte, Cristo Signore, frutto della Vergine, non proclamò beati i seni delle donne e non li considerò fonte di nutrimento, bensì divenne ormai egli stesso il Logos, cibo spirituale per le persone sagge, una volta che l'amorevole e benevolo Padre lo aveva fatto scendere come pioggia. Il mistero della carne e del sangue di Cristo. O meraviglioso mistero! Uno solo è il Padre di tutti, uno il Logos di tutti, e uno è il medesimo ovunque è lo Spirito Santo, e così una è la Madre Vergine, mi piace chiamarla Chiesa. Non ha avuto latte questa madre, lei sola, perché lei sola non è mai divenuta donna, è insieme vergine e madre, intatta come vergine, amorevole come madre. Invita a sé i suoi bambini e li allatta con latte santo, il Logos bambino. È per questo che non ha avuto latte, perché il latte era questo bambino bello e a noi congeniale, il corpo di Cristo. Essa, dunque, nutre con il Logos noi giovani, il popolo novello che il Signore stesso concepì e partorì nel dolore della carne e poi lo avvolse nelle fasce del suo prezioso sangue. O parto santo, o fasce sante, il Logos per il suo bambino è tutto, è padre e madre e pedagogo e nutrice. Mangiate la mia carne, dice, e bevete il mio sangue. Questi sono i cibi a noi adatti che il Signore ci dona. Offre la carne e versa il sangue, e così nulla manca alla crescita dei bambini. Oh incredibile mistero! Siamo invitati a spogliarci della vecchia e carnale corruzione e così pure ad abbandonare il vecchio cibo, adottando al posto un nuovo regime di vita, quello di Cristo. Siamo invitati a ricevere Lui stesso, se possibile, e custodirlo dentro di noi, stringendo al nostro cuore il Salvatore, per annientare in noi le passioni della carne. Ma forse non vuoi intendere le cose in questo modo, forse preferisci un'interpretazione più comune. Allora, ascolta. Dicendo carne, allude metaforicamente allo Spirito Santo, poiché la carne è stata creata da Lui. Il sangue, invece, rappresenta per noi il Logos, e infatti il Logos si è riversato sulla nostra vita come sangue copioso. La mescolanza dei due, poi, è il Signore, cibo dei bambini. Il Signore che è insieme Spirito e Logos. Il cibo, ossia il Signore Gesù, Logos di Dio, è Spirito fatto carne, è carne celeste santificata. Il cibo è il latte del Padre e noi bambini da esso solo siamo allattati. E il Logos, in vero, l'amato e nutritore nostro, ha versato il suo sangue su di noi e per noi, salvando così l'umanità. È attraverso di Lui che noi, credendo in Dio, prendiamo rifugio nel Logos, che è il seno del Padre, il seno che fa obliare le pene. Ed è naturale che Lui solo, il Logos, porga a noi bambini il latte dell'amore. Veramente beati sono solamente coloro che vengono allattati a questo seno. È per tale motivo che Pietro dice: «Deposta ogni malizia e ogni inganno, deposta la finzione e l'invidia e la maldicenza, aspirate invece come bimbi neonati al latte del Logos, affinché in Lui cresciate verso la salvezza, se avete gustato quanto è buono il Signore. Se invece concedessimo ai nostri avversari che il cibo solido è qualcosa di diverso dal latte, allora essi evidentemente si contraddirebbero da sé, non avendo compresa quella che è la natura stessa delle cose. Il latte materiale è il latte spirituale. D'inverno, infatti, quando l'ambiente freddo rende più dense tutte le cose e non permette al calore che è rinchiuso nel corpo di uscire, il cibo viene consumato e digerito e quindi, trasformatosi in sangue, passa nelle vene. E queste, non avendo traspirazione, si riempiono dilatandosi e pulsando fortemente. È per tale motivo che le nutrici in questa stagione abbondano maggiormente di latte. Abbiamo infatti, poco più sopra, dimostrato che il sangue delle donne gravide diventa latte per un mutamento esteriore che non intacca la sostanza, come pure, ad esempio, i capelli biondi si mutano in bianchi quando si invecchia. D'estate, invece, il corpo, essendo più rarefatto, lascia più facilmente passare il cibo e quindi si riempie meno di latte, poiché anche il sangue è meno, dal momento che il cibo non è tutto trattenuto dentro. Se dunque il cibo così trasformato diventa sangue e il sangue a sua volta si muta in latte, allora il sangue costituisce la preparazione del latte, come il seme dell'uomo e l'acino della vite. Con questo latte, che è il cibo del Signore, noi, appena partoriti, veniamo subito allattati e, appena rigenerati con il battesimo, esso ci viene subito concesso come lieto annuncio della speranza del riposo finale della Gerusalemme che è in alto, in cui sta scritto che scorre miele e latte, e come aspirazione al cibo santo simboleggiato dal cibo materiale. Infatti, mentre gli alimenti, come dice l'Apostolo stesso, vengono consumati e sono eliminati, il nutrimento che deriva dal latte ci conduce ai cieli, ci nutre e ci alleva, rendendoci cittadini dei cieli e compagni dei cori angelici. E dal momento che il Logos è una zampillante fonte di vita, ed è chiamato anche fiume di olio, è naturale che Paolo, designandolo allegoricamente anche come latte, affermi: «Vi ho abbeverati». Il Logos, infatti, che è nutrimento di verità, si beve. Del resto, una bevanda può essere definita nutrimento liquido, e la stessa cosa può essere sia cibo solido che bevanda, a seconda di come lo si considera. Come anche il formaggio, ad esempio, che non è che un coagulamento del latte, è latte rappreso. Ma non voglio ora ricercare i termini tecnici, mi interessa solo sottolineare che un'unica sostanza fornisce questi due alimenti. Ai bambini lattanti, infatti, il solo latte è sufficiente sia come bevanda che come cibo. Io, dice il Signore, ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. Vedete, questo è un altro cibo, la volontà del Padre, inteso allegoricamente in un senso simile a quello del latte.